Sommari! Eia! Diri, diri, diri! Eia! Ecco, ma cagati! Eia! Ah, non mi faccio una scappata! Che faccia io? Sto arrivando! Sommari! Sommari! Oh! Caspita! E beh, adesso dopo magari stasera domani te lo guardo! E beh, com'è questo qua? Quale stai usando? Quell'altro o l'altro? Ah, no, il rosso. No, è buona come modulazione. Oh, va bene, no. Ma sto a te provare, ma non ci riesco. Quello bisogna trovarlo il coso e farlo. Ah, già te lo cerco, io lo trovo il manuale in italiano. Caspita, vabbè, se sono usciti da poco. D'accordo, quando voi lo cerchi, che è meglio sempre averlo, capisci? Infatti, meglio sempre averli i manuali, quindi se mi prendo la sigla del coso mi prendo. Mi fai questa cortesia, là, dopo chiedi qualche favore a me. Ehi, sto pensando stasera che il microfono me l'ho trovato, e ti avevo dentro una scatola. Però non è attaccata. E l'ho attaccato, no, è solo il coso, quel programma è solo in ascolto. Ecco. Allora fai bene, là. Dopo mi sono dimenticato a farmi dare il numero che guardo anch'io, vedo un po' com'è. Mi l'hai dato l'altra volta, però mi sono dimenticato. E non riesco a trovarlo. Subito, Roma 2. SDR. Aspetta che me lo segno. Roma 2 SDR. SB, figo la bestia. No, B. Non me lo so, la D R SDR, ok. Va bene. Benissimo ti va. Adesso ti va benissimo. Vabbè, meglio così, là. Ok, so. È bello questo, comunque è bello, dai. È vero che sono tutti e due, l'altro è ben fornito, quell'altro c'ha colori. E quello c'ha un sacco di roba, No, ma è bello quell'altro che piace a te, perché me lo stavo guardando, Perché lì ci danno altre cose in mezzo, capito? Si può dire, ti dà il canale, la frequenza, poi ti dà il box, ti dà tutto quanto il controllo, il controllo di salire fino a più 30 ti dà sale. Fa un sacco di cose, poi sai il libretto in italiano, le istruzioni. Quello per dire molto, quello per dire molto. E quanto costa, che non mi ricordo? Io l'ho trovato in spedizione gratuita, 94 euro, anche 95 euro. Ma vale la pena, dai. Già vale la pena, allora sto, dai. Appena è coso me lo prendo, più che altro perché tirare un auricolare ad attaccare al coso per parlare direttamente. Se sai, quando finisce di parlare attacchi tu a parlare, te lo si apre da solo la chiamata. E le portate lo disturbi il rumore della macchina? No, non disturba nulla, no. È fatto proprio per macchina, camper, camion. Allora, come bombo allora, te lo fai vedere dopo la droppisi? Io te lo faccio vedere sì, quando lo prendo, perché più che altro mi serve per quando vado fuori, hai capito? Le droppe di Sant'Enna e va giù provvisoriamente. Eia. Sai cos'è? Quell'altro a colori, il volume che aspetta, tocca sempre entrare il menu per abbassare il volume. Quelli sono così, sono, infatti quello è così. Quello che è un po' strano, capito? Se per abbassare il menu, se perdi tempo, capito? Mentre con quell'altro invece c'è già la barocca del volume e fai tutto. Infatti, quello è cosa, se deve entrare sempre abbassare il volume lì, devi abbassare. Ma quello già è cioè, omologato, sì. No, tutti e due omologati, sto. bisogna prendere gli omologati, almeno sei tranquillo, dai. Quegli altri bisogna cacciarsi sono dentro la scatola, boh, è che li tocca più. Infatti, quindi almeno sta tranquilli così e basta. No, no, è giusto che sia così, dai, è giusto che vogliamo omologati e boh, e non si deve fare, sei tranquillo e fai le cose giuste, hai capito? Perché certe volte va a fare lo spaccone dopo, in senso che le cose non vanno bene, mentre in questa maniera con omologato e sei tranquillo. Omologato. Vabbè, signor Marchisio, arrivi tutti. No, buonasera a tutti, siete brutti. No, non aveva nulla ancora. Vuol dire che un bottino è retardatario. Ok, buonasera signor Marchisio, mi stia bene, tante cose calde. Qualche cassetta di dollari ci deve arrivare. Ehi, un buon dollaro. Meglio così, almeno se riempi le tasche. Buonasera, ben sentito. Allora, i dollari ci vogliono. Sopra dollari. Infatti, hai visto la benzina più cara, così stanno mandando i dollari. Va bene, Bacchi. Com'è questa radio, Bacchi? Bella, benzina chiara. Tranquilla, no, non ce lo butto. Ovviamente la passatura fa per raccoglierlo, lo sono finito. Vabbè, so, li ho resta. Infatti, no, è buona, sì. Poi quello l'hai comprato ieri, sono chiamato ieri, siamo a te. Com'è, non ho capito, Bacchini, c'è uno che mi sta spratterando. Adesso, quello che è arrivato da nuovo, Eia. No, è chiara, poi la forte. Poi la forte, anche. Perché l'ho messo sul sacchetto ieri notte? Ah, l'ho messo sul sacchetto? Ha messo il telefono, l'ha messo anche. Per forza. Allora, per quello che sta facendo benissimo. Allora, sì, sono, mi sa il sole, del maggio, Maria l'ho fatto. L'ho messo sul sacchetto, funziona bene. Che cagno sblattero? E chi è? Infatti, anche a me, io pure lo sei. Boh, non lo so. Tirato su per non sentirlo. Allo stappo? Sì, a tappare lo stappo, io buio un dappo, se paghi. Ah, che Bacchisio! Ciao, signor Bacchisio! Posso parlare? Scusate, frequenza, sono parlando di questo canale, da lontano. Provo di questo canale. Giorgio Giarrado, non lo goggio io, rubon Giorgio Giarrado. Alla cucina non mi arrivi. Ma posso cos'era Giarrado? No, quello è aperto, l'altro è chiuso. Poi sono su questo canale. E la propagazione sta arrivando. No, no, questo è lo sblattere di decoso. Se lo sento. Chi è questo che sblattere? Ma non c'è più per adesso. Poi io non lo sento, adesso faccio il giro di canale a vedere. No, infatti non c'è adesso. Andate, anda. Andiamo bene a casa. Andiamo bene, è spagnolo, mi. Lo spagnolo fa bene. Bisogna, domani bisogna andare là, mi. Per usare. Graziano che era studiato lo spagnolo, quello già li sa parlare un pochettino. Tanto se che fa da io. Ho capito, da poco fa che te lo sto dicendo. Punto su 10. Sì, no, ma io l'ho sentito da poco fa io, per quello ho chiuso il tasto. Ma stavo dicendo, nessuno senta, No, non ho detto, volevo guardare, però io ho detto, forse però sente di salutarti, dai, con la buonasera. Ci sentiamo alle prossime, ma che riprendo il video chiuso. Ciao Gian Maria, buona serata, ciao da Saluglia. Ci sentiamo domani, Gian Maria. Non ti preoccupare, io te lo cerco qualcosa. Ok, ci sentiamo domani. E va bene. No, perché di solito fanno così su e B, fanno. O 22 o 23. Sicuramente te lo danno domani. Molte volte arriva prima, molte volte arriva l'indomani. Anche a me fa così. Tieni, tieni, che stai chiamando. Oh, il Siddabi. Ah, no, guardami, c'ho un occhio aperto e l'altro mezzo aperto. Anda, guarda che c'è anche Bacchisio. Non mi sono Luca, non ci sono più, sono a dormire. Capito mia? Sono avanti sole. Ehi, ma noi ci siamo nella maglia, vanno. Certo, no, sì, di solito entri, a vedere la mangiare. Oh, e beh, quando rientro domani la mangiamo. Oh, sì, di solito si imbarcano, dove si è già partendo la nave? No, alle 8:30 parte. Alle 8:30 parte la nave. Intendimmo, non sono varie volte che mi ha mandato, ma se mi hanno accompagnato il computer, tutto il loro telefono. Andiamo bene. Vabbè, ti ho avuto oggi stasera, no? Vento, se... Da parte, esatto, non si può manco cambiare. se va bene, dai, se andate. Però sono il viaggio, andate in ritorno, fino alla riparazione, si prepara il nuovo. Infatti, ma se c'è dura non vai andare. Secondo me ci deve essere qualche diodo, ci deve essere, che lo fa scaldare, qualche diodo che è andato. Non è andato, lo sta andando. Sicuramente è così, qualche diodo che sta andando. Forte, no. Si può dire il commutatore a zero, ma quindi non deve sentire un attesto. Anda per un attesti, anda. Aspetta che andiamo bene. Va bene, c'è un'antenna. C'è un'apposciola. Ma c'è solo una? Sì. Non so se non lo so fare, non lo so cosa fare. Non lo so cosa fare, non lo so cosa fare. Per abbassarlo un po', per dare un po' di bene, vuole messa, che se no c'è già le stazionarie. Andiamo, andiamo, e insomma, credo che necessariamente vado a mangiare un grano, vabbè, basti, dai, ci sentiamo domani, ci sentiamo a alle prossime, ok. Ciao, dottore, ciao, buona serata, saluta la signora, anche se domani non va bene. E anch'io vado giù. Ciao Luca, sei all'ascolto, buona serata anche per te. A domani è tutto confine. Bye bye. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.